Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona giornata a tutti. Una enciclica, un viaggio in America Latina, una canonizzazione record di 802 santi, un incontro mondiale dei movimenti cattolici. Questi alcuni dei principali obiettivi del Papa per il nuovo anno, che coincide in parte con l'anno della fede da lui proclamato per i 50 anni dal Concilio Vaticano II. E proprio dal Concilio vogliamo ripartire per capire cosa è stato attuato e cosa resta da fare. Lo facciamo con il vaticanista Gianfranco Sviderkowski, autore del libro Il ritorno dei chierici. Sicuramente c'è stato un cambiamento nella maniera di pregare, che certe volte è anche diventata una nuova maniera di vivere la fede, anche se ci sono abbastanza problemi, perché da un lato c'è stato sicuramente un miglioramento sul piano della spiritualità, con l'impiego finalmente della Bibbia, che per secoli era stata negata ai cristiani. E dall'altro però forse c'è anche una banalizzazione certe volte del rito della messa, proprio perché non si è riusciti a trasformare questa messa da momento soltanto rituale anche a momento di rinascita, diciamo, per una nuova fede. Ma poi soprattutto io penso che ci sia stato un grande sviluppo dal Concilio in poi sul piano di quella che si chiamava la Chiesa ad extra, cioè dei rapporti della Chiesa con il mondo esterno, i rapporti intanto della Chiesa con le altre Chiese cristiane. Basti pensare che prima del Concilio gli altri cristiani protestanti ortodossi erano soltanto dei fratelli che avevano sbagliato, che bisognava riportare all'ovile, o basti pensare anche ai rapporti con le religioni non cristiane. L'ebraismo, soprattutto i grandi passi in avanti che ha fatto con la cancellazione dopo 20 secoli dell'accusa di deicidio. E poi sicuramente il progresso c'è stato nella difesa della libertà religiosa, come anche in questi giorni si sente, nella difesa dei diritti umani. C'è una Chiesa che due secoli fa condannava la libertà religiosa e adesso è diventata la portabandiera della libertà religiosa e della difesa dei diritti umani. Bene o male è soltanto la Chiesa cattolica che in termini mondiali parla di pace, di giustizia, cioè si ascolta soltanto la voce del capo della Chiesa cattolica quando scoppia un qualche conflitto in quella qualsiasi parte del mondo. Sicuramente una Chiesa dove vediamo molto molto diversa da quella che era prima. E tuttavia, Gianfranco, ne parli anche tu. Nel tuo libro restano dei nodi irrisolti. Quali sono i principali? C'è tutta una Chiesa gerarchica che è un po' stabilizzata su questa situazione di non attuazione reale del Concilio. Parlo soprattutto del documento fondamentale del Concilio, che è la Lumen Gentium. Bene, i tre punti fondamentali, nessuno dei tre è stato realmente ancora dopo 50 anni realizzato. Il primo, la Chiesa Mistero. Bisognava riequilibrare questa Chiesa troppo burocratica, troppo istituzionale e troppo esterna con più spiritualità. Un po' è stato fatto, ma lo si è visto anche in questi ultimi tempi, quanto l'istituzione Chiesa abbia avuto il sopravvento. Il secondo punto era quello del popolo di Dio, cioè di una rivalutazione anche di tutti i cristiani in rapporto all'unico battesimo che hanno. Invece ancora il laicato in una situazione se non di minorità come era in passato, ma anche non di non corresponsabilità piena come il Concilio chiedeva. E l'ultimo punto poi di questa Chiesa collegiale, cioè di questo riequilibrio tra il potere del Papa sanzionato dal Concilio Vaticano I e l'importanza data al Collegio dei Vescovi fatta dal Vaticano II. Ecco, non c'è ancora questo equilibrio. Io penso che tutto questo sia bloccato perché rimetterebbe in questione troppi punti di privilegio anche della gerarchia. C'è questo ritorno di clericalismo, penso che dipenda anche da questo. Ora c'è Don Willy Volonté. Chi non ha mai canticchiato, facendolo risuonare dentro il motivo Blowing the Wind, quante strade deve percorrere un uomo prima di essere chiamato uomo? Fu un ragazzo appena ventenne, proveniente dal Minnesota, che compose questa canzone 50 anni fa in ascolto del vento, Bob Dylan. E per quanto tempo dovranno volare le palle di cannone prima che verranno abolite per sempre? La risposta, continua Bob Dylan, amico mio, sta soffiando nel vento. Proprio questa è la traduzione giusta dell'inglese e non quella un po' nichilista che afferma che la risposta non c'è o forse ci sarà perduta nel vento. La domanda sul senso e il destino della vita ha tormentato per anni Bob Dylan, come agita l'intelligenza del cuore di ogni uomo e donna autentici, tanto che il grande cantautore americano a più riprese si domandò perché mai Cristo attragga così tante persone. Tanti furono affascinati dal ritmo delle sue melodie, ma la profondità delle sue parole volò via come ogni cosa grande che non si ha il coraggio di accettare. Finché lo stesso Bob Dylan, invitato a suonare e cantare a Bologna durante il congresso eucaristico nel settembre 97, si sentì rispondere dallo stesso Papa Giovanni Paolo II, presente al concerto, che lo guardava attento con l'orecchio teso: quante strade l'uomo deve percorrere? Una sola, Cristo. Quale vento lo sospinge? C'è un vento che abbatte, ma c'è anche il vento che sospinge, quello dello Spirito di Cristo. E proprio in questi giorni, presentando il suo ultimo album, Bob Dylan ha dichiarato: «Volevo fare un disco intenzionalmente specificatamente religioso. Prova ne è che ci sono canzoni che richiamano Maria, la madre di Gesù, come «Sento una dolce voce chiamare dolcemente, deve essere la madre di nostro Signore». Il vento dello spirito soffia con fantasia dove vuole e allora ritorna a soffiare per chi ha l'intelligenza e il cuore aperti.